situazione meteorologica che ha portato alla formazione di questo ciclone, seppur diciamo non così frequente, è comunque una delle situazioni che accade, diciamo, soprattutto nel periodo invernale e primaverile. Si tratta di, diciamo, la formazione di una zona di bassa pressione, si forma sostanzialmente sul Nord Africa e poi attraverso il deserto algerino, la Tunisia, arriva sul Mediterraneo e sulle zone ioniche. Il problema non è tanto il tipo di situazione, ma l'intensità, diciamo, aumentata, ecco, di questi eventi. Quindi in questo caso, a parità di situazione meteorologica, diciamo, il ciclone è stato molto molto più intenso del normale, producendo gli effetti che abbiamo visto, ovvero onde fino a praticamente 8-9 metri vicino alla costa, non in mare aperto. È stata registrata un'onda di 16 metri nelle boe, diciamo, che sono al largo del canale di Sicilia, e per 2-3 giorni di seguito. Quindi la potenza di questa mareggiata è stata davvero enorme e ha causato molti danni in 3 regioni, cioè Sicilia, Calabria e Sardegna. E quindi questo è un ulteriore evento che ci deve far riflettere e che deve essere letto non come singolo evento, ma insieme a tutti quelli che abbiamo visto nelle diverse parti del nostro territorio, a partire dalle nostre, diciamo, piogge che abbiamo visto in Emilia Romagna, ad altri eventi. Cioè, noi dobbiamo analizzare tutti questi fenomeni insieme nel quadro di un aumento dell'intensità sostanzialmente degli eventi meteorologici. In passato avevamo parlato del fatto che uno dei problemi è rappresentato dalla temperatura dei mari, è ancora così? Certo, il Mar Mediterraneo sta vivendo un'ondata di calore sostanzialmente continua da fine 22 fino ad oggi. Cioè, cosa significa? Significa che la temperatura del Mar Mediterraneo si è scaldata anche in profondità, e quindi questo calore che è stato accumulato a causa ovviamente del continuo riscaldamento, diciamo, del globale, persiste nel mare e viene ceduto poi ai sistemi meteorologici quando questi si formano. Quindi in che cosa si traduce sostanzialmente questo surplus di calore? In aumento delle precipitazioni, aumento dell'intensità dei cicloni, aumento quindi dell'intensità del vento, e quindi anche aumento delle onde e anche aumento del livello del mare, perché più l'acqua è calda, diciamo, e più si espande. Volevo dire 2 cose riguardo a questo ciclone. Una, che a fronte della potenza dei danni del sistema, tutto sommato almeno non ci sono state vittime, cioè non state evacuazioni preventive, erano state chiuse le strade, erano state chiuse le ferrovie, al di là di alcuni comportamenti, vabbè, che abbiamo visto magari anche sui social, però il sistema di allerta è efficace e anche di previsione, perché era stata prevista perfettamente, diciamo, questa mareggiata nella sua intensità. Quello che mi lascia un po' perplesso invece è come viene resa sui giornali. Forse non è stata colta, ecco, la gravità di questo evento, perché vedo notizie un po' episodiche, non è tanto spiegato e quindi se non si fa quell'operazione di spiegare, di leggere l'evento nel quadro comunque generale di aumento dell'intensità dovuto al riscaldamento globale, si perde un'occasione per produrre conoscenza e coscienza.